spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. E allora buongiorno, ancora buongiorno, primo agosto, c'era un traffico questa mattina prima delle 7, sembrava di essere nell'ora di punta di una giornata così di metà dicembre, quando si precipitano a ultimare gli acquisti i ritardatari. Una incredibile, bollino rosso oggi sulle strade, dunque fate molta attenzione, quel che resta, un residuo forse di quelli che una volta erano i grandi esodi. How are those 7 billion organized? They're still organized in 200 or so nation states, and the nations have governments that make rules and cause us to behave in certain ways. Non parleremo di traffico, oggi l'avete intuito, questo è un discorso tratto da TED. TED è quel sito che raduna ormai da decenni, è diventato un fenomeno planetario, i discorsi che diffondono le idee per un mondo migliore. Discorsi che durano al massimo 18 minuti e quello che sentite parlare è Simon Anholt, ha fatto qualcosa di decisamente meritorio, sarà nostro ospite dalle 9, ne parleremo a spunti di vista. Ci sta spiegando come è cambiato il mondo negli ultimi 30 anni, se un pollo starnutiva in un villaggio remoto in Asia, una volta sarebbe stata una tragedia per il pollo e i suoi parenti. Ha iniziato così in maniera simpatica e ironica questo suo discorso, che invece ha delle valenze serissime. Simon Anholt era un consulente della Banca Mondiale e si è un po' stancato di dare consigli ai governi e ai governanti su come aumentare la competitività, su come aumentare la tecnologia, su come aumentare la redditività. Ha pensato, cos'è che accomuna oggi tutti questi governi e governanti che mi chiedono consigli per problematiche legate a default interni, a inflazione? Spesso le sfide di oggi, dice, certo, sono terribili, possiamo parlare di terrorismo, narcotraffico, insomma di globalizzazione, ma non ci sono solo vittime della globalizzazione dei suoi problemi, perché possiamo risolverla noi. E quindi si è messo a pensare Simon Anholt e ha sfornato questo Good Country Index, cioè l'indice dei paesi che nel mondo contribuiscono maggiormente al benessere degli altri paesi. È un tema che approfondiremo, parleremo sì certo anche della classifica della felicità mondiale, di come ci sono ranking che vedono l'Italia al 45esimo posto sul fatto felicità. Ma come arriviamo invece in questa classifica così importante, che valuta dei parametri come la qualità della vita, certo, ma anche la cultura, la tecnologia e il contributo alla pace e alla sicurezza internazionale? E sapete qual è il primo paese in testa a questa classifica? Naturalmente ne discuteremo e lo sveleremo nel corso del nostro dibattito alle 9 in Spunti di Vista. Se volete prenotarvi per opinioni, analisi, contributi, richieste, 800 24 00 24, le vostre telefonate sono sempre le benvenute. Visti da fuori. E a proposito degli effetti che ha ciò che succede in qualsiasi area remota del pianeta su tutto il resto, in prima pagina ovunque, il Sole 24 Ore non fa eccezione, Argentina, bond in default, si tratta per evitare il crack, Argentina che torna sotto i riflettori, e diamo il benvenuto naturalmente alla nostra corrispondente straniera che vive in Italia, si chiama Elena Llorente Ruiz. Hola Elena. Hola, buongiorno. Corrispondente per Pagina 12, l'ho detto bene, più o meno, sì, insomma, si sente un accento marcatissimo, non è sdoganabile, e non intendo con te ovviamente entrare nei dettagli tecnici di quanto sta succedendo, perché nel corso della trasmissione Cuore e Denari, in onda qui su Radio 24 alle 11, tra l'altro, vedremo che effetto ha tutto questo anche per i consumatori, quali sono i rischi. Ma in questi giorni a Buenos Aires che aria si respira nelle strade tra la cittadinanza? Beh, devo dire che l'angoscia ha cominciato a prendere i cuori della gente. Io ho parlato con alcuni

ritardi nella consegna di lettere e poi il postino che una volta consegnava, soprattutto in questa stagione, cartoline e lettere, ha comunque un ruolo molto importante ultimamente, a parte per le cose tristi, diciamolo, cioè sono business succulenti dal punto di vista economico come corrispondenza commerciale, bancaria, ma sono abbastanza tristanzuoli da ricevere nella cassetta della posta. Ma ha un ruolo importante anche nella consegna dei pacchi. Trionfa infatti l'acquisto via internet sempre di più e Poste Spa ha il suo bel ruolo nel recapitare. È troppo costoso comunque questo postino, questa figura. Contestualmente ci sono anche tante assunzioni, se andate sul sito di Poste Spa, soprattutto per posizioni stagionali, e questa è un'informazione importante da dare, visto che la crisi, la disoccupazione rende ancora più cruciale sapere che le nuove assunzioni di Poste Italiane interesseranno 1684 portalettere e 230 addetti allo smistamento. Insomma, in totale sono disponibili 1914 nuovi posti di lavoro per l'estate 2014. Se non l'avete ancora fatto, affrettatevi. Noi alle 9 poi parleremo anche del paese migliore del mondo. Proprio così, secondo voi qual è? Una grande sorpresa questa classifica, il Good Country Index. Dicevamo, ce l'ha fatta scoprire TED, questo sito di discorsi pubblici che possono rendere il mondo migliore. Sarà un mondo migliore, ma sarà un mondo senza portalettere. Buongiorno Paolo Martinello. Eccomi, buongiorno a voi. È il presidente di Altro Consumo, grazie per la sua presenza. Dicevamo, c'è un obbligo di universalità del servizio, anche se non si sa se sarà ancora economicamente sostenibile. Sarà economicamente sostenibile probabilmente se i portalettere non si limiteranno a portare le lettere, come già dice, che sono sempre meno. Come già dicevate voi, il futuro del servizio postale in Italia, sia quello di Poste ma anche quello di tutti i concorrenti, è soprattutto legato allo sviluppo del commercio elettronico più che alla consegna delle cartoline, delle lettere, che ormai sono, non dico un ricordo del passato, ma insomma certamente diminuite rispetto al passato. Il servizio universale, il servizio di base, quello che deve essere garantito in questo momento da Poste Italiane, è comunque fondamentale, va difeso, non dico che non vada modificato. Qui però la polemica di queste ore direi che è legata molto a, da un lato, al braccio di ferro che c'è tra Poste e la Agcom. Ricordiamo che la Agcom è l'autorità che deve stabilire, è l'autorità delle comunicazioni che deve stabilire quanto costa il servizio universale, il servizio di base, e quanto è il contributo che lo Stato deve dare a Poste per erogare questo servizio che è economicamente, diciamo, in passivo. Dall'altro non escludo che ci sia anche un aspetto un po' più generale in questa polemica sulla riduzione dei costi del servizio universale, legato alle prospettive di privatizzazione di Poste, di cui si è tornato a parlare, e che quindi questo, come dire, questa prospettiva di abbattere questi costi sia legato al fatto di rendere in qualche modo Poste più appetibili. In mezzo a questa polemica ci stanno i consumatori, ovviamente, i quali... Prima di andare sui consumatori, completiamo questa informazione. Ovviamente abbiamo cercato di avere un interlocutore di Poste all'interno di questa trasmissione di questa mattina, ma erano tutti impegnati coloro che potrebbero darci ragione, soprattutto delle cifre a cui ha fatto riferimento lei, perché secondo Poste bisogna mettere sul piatto 709 milioni per il 2011 e 704 per il 2012. Stiamo parlando di numeri per garantire il recapito in ogni luogo della penisola, queste sono le cifre. Risposta dall'altra parte del garante per le comunicazioni, cioè questa authority chiamata a quantificare le coperture. A Poste noi non intendiamo riconoscere più di 380 milioni per gli anni suddetti e 327 milioni per gli anni successivi. Ora c'è uno scostamento sostanzioso, non si capisce bene come sarà possibile riempire questa forbice. Ma veniamo al punto di vista dei consumatori. Quali tipi di danni potrebbero subire o già subiscono i cittadini da questa erosione del servizio? diciamo che le lamentele che riceviamo come altro consumo riguardano, oltre che il problema dei ritardi, il problema dei pacchi che non arrivano, si perdono, che sono, se vogliamo, problemi abbastanza fisiologici, riguardo proprio al servizio di recapito, che è quello di cui si sta discutendo in questo momento, certamente i consumatori hanno già vissuto e constatato come questo servizio si sia andato già nel corso degli anni assottigliando, riducendo sia in termini di consegna, di tempi di consegna, sia in termini per esempio per quanto riguarda le raccomandate, che oggi sono forse il principale servizio reso da Poste in regime di servizio universale, il fatto che il recapito avvenga malamente, il postino che suona alla porta, che dovrebbe suonare alla porta, che magari non suona e che quindi costringe le persone ad andare a ritirare le raccomandate nei luoghi predestinati, luoghi che sono sempre meno e sempre più lontani, con orari ridotti, in tempi rapidi, quindi c'è tutta una problematica legata proprio alla consegna e al ritiro della posta che è oggetto di lamentela. È chiaro, insomma, e quindi arriva anche sui vostri tavoli. È un problema che esiste già questo qua e che direi... Non c'è solo il problema, perché guardi, a sorpresa va detto, noi abbiamo un numero SMS dove di solito è uno sfogatoio, ci segnalano cose terribili generalmente. Invece il primo messaggio della giornata al 349-238-6666, segnatevi il numero ma non messaggiate mentre siete in autostrada oggi, 349-238-6666, e ci segnalano che a Serra Mazzoni i postini sono solo donne, il servizio per gli utenti è ottimo, così come il servizio dell'ufficio postale, anche questo solo con presenza femminile. Non credo che Giuseppina si qualifica come ascoltatrice, sia una delle impiegate delle Poste, però è giusto segnalare anche il miglioramento del servizio laddove c'è stato. Anna, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Anna, e lei invece che tipo di testimonianza ci vuole portare sull'efficienza del servizio postale? Dove abita innanzitutto, perché è importante? Allora, io abito a Vernate, provincia di Milano. Sì. È un paesino. Sì. Praticamente noi abbiamo un disservizio veramente vergognoso, perché il postino non sappiamo bene ogni quanto passa a consegnare la posta, tante volte magari fa settimane senza passare, poi magari passa un giorno e ti lascia tutto quello che potrebbe consegnarti diciamo nel periodo precedente. Certo, lei quanti abitanti ha questa località dove abita lei, Anna, per dare così per contestualizzare più o meno? Come? Scusi? 2500. E quindi lei si ritrova per esempio raccomandate settimanali tutto insieme in una giornata? La raccomandata poi non esiste più, diciamo che viene andata a ritirare sempre nella posta. Ma la cosa più brutta, cioè vergognosa che ci possa essere, che non sempre, cioè, ti consegnano la posta degli altri e agli altri consegnano la posta tua. Ho capito. Quindi tante volte poi vicino di casa magari non ti conosci, quindi la cestina o che cosa, e tante volte ti ritrovi la posta magari di una bolletta, per dire, scaduta, per esempio, che ti arriva troppo tardi. Grazie alla signora da Vernate. Purtroppo ci sono problemi, anche questo è legato forse alle telecomunicazioni, ma ad altro genere, sulla linea. Quindi chiamateci all'800 24 00 24 per le vostre esperienze. Ci piacerebbe capire anche quali sono i modelli da seguire. Per esempio, ci chiede Giovanni, in Austria, in Germania, come funzionano le poste? E Francesca ci segnala una situazione analoga a quella che ci raccontavano dalla provincia di Milano, cioè il recapito di settimanali arretrati, raccomandate, addirittura suggerisce agli editori di questi settimanali, queste riviste in abbonamento, di chiedere i danni a Poste per tutti gli abbonamenti che non verranno rinnovati, cioè ci sarebbe anche questo fenomeno legato all'assottigliamento del servizio. Noi ora ci spostiamo in provincia di Genova. Buongiorno. Pronto, Romildo? Pronto? Il silenzio assoluto. Le hanno suonato alla porta? No, assolutamente. Pronto? Sì, ora la sentiamo. Pensavamo fosse andato ad aprire al postino, magari. Visto... No. Perché non suona da voi? Al momento sono in ufficio. Io sono il sindaco del comune di Davani. Di conseguenza la posta arriva agli uffici e poi me la fanno pervenire in un altro modo, non certo direttamente dal postino. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. E quindi lei sta in una frazione... no, lei sta a Davagna, ma le segnalano che soprattutto nelle frazioni ci sono grossi disagi legati al servizio postale. Cosa succede esattamente? Ma quello che succede a Davagna è una cosa un po', diciamo così, che ha la sua origine da qualche anno a sta parte. Il fatto che nel comune di Davagna, che ha circa 2.000 abitanti, fino a 6-7 anni fa addirittura c'erano 4 uffici postali che funzionavano su tutto il territorio. Il nostro territorio si estende su una provinciale che è a 18 km, di conseguenza è abbastanza sparso come frazioni. Invece oggi cosa succede, scusi? Oggi succede che già dall'aprile-marzo del 2012 sono state ridotte nella frazione di Scofera da un giorno all'altro, da 3 giorni a un giorno alla settimana, il sabato, per consentire l'effettuazione di tutti quelli che sono le operazioni postali, che poi al giorno d'oggi non è soltanto discorso di posta, la posta è anche banca e ovviamente ci sono persone di una certa età che abitano in quelle frazioni che si ritrovano a non avere più un servizio che è fondamentale per queste nostre zone. E questo discorso è andato avanti per un po', poi a furia di proteste e incontri con l'assessore regionale e raccolte firme o altro, siamo riusciti a ripristinare 2 giorni alla settimana, questo sulla frazione di Scofera, mentre altre frazioni come Meco e Moranico addirittura c'era l'ufficio che funzionava almeno un giorno alla settimana, soppresso anche quello. Soppresso anche il servizio un giorno alla settimana. E noi le abbiamo dato voce proprio, sindaco, perché la sua situazione, che giustamente vive come importante per i cittadini e grave, è molto diffusa sul territorio. Nella provincia di Verona, ci scrive un ascoltatore, la posta arriva una volta alla settimana nella sua località, che se leggo bene è Saulo, ma dice quando arriva. Attenzione, le poste dovrebbero fare le poste e non la banca, altra lamentela degli ascoltatori. Affronteremo questo tema anche tra pochissimo, è per questo che poi si registrano dei disservizi sulla consegna, chissà se sono collegate queste cose. Comunque fino a 5 anni fa, sapete quanti erano i portalettere in Italia? 45.000. Oggi quelli che escono, cioè su un totale di 145.000 dipendenti, sono 35.000 i postini, questo secondo le cifre fornite dal segretario generale della CISL del settore, cioè Mario Petitto. E c'è questo problema che quando poi si ammalano questi postini non vengono sostituiti, vuol dire che interi quartieri di città possono restare scoperti per giorni, perché coloro che già lavorano in questa situazione di carenze di personale non possono accumulare straordinari oltre le 120 ore. Ma devo farle una domanda, sindaco. Quando è l'ultima volta che lei ha spedito una lettera? E ha scritto una lettera? A dire la verità è parecchio. Devo dare atto comunque che la trasformazione che è in atto, il servizio che ci rivolgiamo alle poste, essenzialmente solo, quasi esclusivamente, pagamenti di bollettini postali, tasse e quant'altro. L'invio della posta si fa in altro modo. È chiaro che è anche un cambio storico quello che stiamo descrivendo oggi. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Stiamo tracciando una sorta di cartina del servizio postale. A Pontedera i postini passano quando vogliono, secondo Marco, e per settimane non arriva niente. Poi ti trovi la cassetta piena, pingue di cose che magari sono scadute, andavano pagate prima. 349-238-6666 per le vostre segnalazioni. Cosa succede invece a Salerno? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io signora. Come Salerno. Sì, ho visto. Come si chiama? Matilde. Ascolti, qui a Salerno c'è invalso ormai da più di 2 anni l'abitudine di lasciare direttamente in cassetta un avviso di giacenza di raccomandata. Dopodiché lei deve fare il giro degli uffici postali di Salerno e dopo una lunga coda di addirittura di un'ora, un'ora e mezza, va a ritirare una raccomandata. È una cosa veramente indecente. Poi, ma lasciano l'annuncio perché le persone non sono in casa? O... No, a prescindere, perché per esempio nel caso mio ci sono sempre in casa, o se non ci sono io c'è mio marito, quindi volendo potrebbero anche citofonare e dire scendete e prendetevi la raccomandata. Invece no, lasciano direttamente l'avviso in cassetta, dopodiché che lei deve fare il giro degli uffici postali per andare a ritirare la raccomandata che le dovrebbe essere recapitata al domicilio. Uno. Seconda cosa, ho spedito proprio di recente una raccomandata a un mio nipote a Nuova Sili, una raccomandata costata ben 9,50 €, dopodiché dopo 26 giorni dopo che io sono andata a protestare, a cercare di sapere che fine aveva fatto questa raccomandata, gli è stata consegnata, perché è andato lui a ritirarla, è aperta la busta e tutta quanta lacerata, e Dio solo lo sa se c'era tutto il contenuto. Grazie Matilde, è uno spaccato molto diffuso quello che ci ha raccontato la signora da Salerno, anche se in alcuni posti, poi naturalmente si chiama più per i disservizi, le cose vanno ben meglio, e molti lamentano l'accumulo di lettere che non vengono consegnate, raccomandate che non vengono consegnate anche quando le persone si trovano in casa. Sì, questo è un caso tipico che ci state segnalando, e ci si chiede però qual è il modello da seguire, cioè cosa succede all'estero, quando è che potremmo dire sì, l'Italia è messa male, diciamo così tra virgolette, perché queste cose oltre confine non succedono. E tra poco lo chiederemo anche al presidente di Altroconsumo. Voglio sentire però Giovanni Riviera, buongiorno. Giovanni Riviera ha fatto una cosa particolare, ha inventato, è uno dei fondatori di Indabox. Di che si tratta? Indabox fondamentalmente è un servizio che è nato per dare la possibilità alle persone che acquistano online e che quindi si fanno spedire ciò che comprano, una modalità di ritiro più comoda rispetto a quella di dover aspettare che prima o poi passi un postino o un corriere a consegnare ciò che si è acquistato. Cioè siamo pratici e con esempi concreti. Certo, cosa vuol dire modalità di ritiro più comoda? Abbiamo affiliato e creato una rete di punti di ritiro che sono disposti a ricevere ciò che i nostri utenti fanno spedire. Esempio, compro qualcosa online, al posto di farmi spedire ciò che compro presso il mio domicilio, decido di farlo spedire presso uno dei nostri punti di ritiro, che sono all'80% dei bar. Il bar più vicino? Esatto. E il bar viene pagato per questo da voi? Sì. Assolutamente, il bar ha solo vantaggi ad aderire a questo network, perché oltre all'euro e mezzo che guadagna per aver ritirato il pacco, ha la possibilità di fidelizzare un cliente nuovo che magari che già scopre, che lì si beve il caffè e quant'altro, caffè, la birretta piuttosto che l'aperitivo la sera. Beh, è decisamente innovativo. Da quando c'è questo Indabox? Il lancio, noi siamo una startup, il lancio è avvenuto a marzo dell'anno scorso su Torino fondamentalmente. Oggi siamo a 700 punti di ritiro diffusi in tutta Italia, stiamo crescendo molto e speriamo assolutamente di continuare. Quindi le persone aderendo al vostro servizio hanno dimostrato di avere un bisogno concreto. Sì, sulla consegna assolutamente sì. Ci avete colto. Ma quanto costa poi avvalersi di una cosa di questo genere? È allora, accessibile alle tasche di tutti o c'è un sovrapprezzo? È chiaro, dipende. Certo c'è un prezzo da pagare, perché ovviamente da qualche parte i soldi per poter retribuire i punti di ritiro li dobbiamo andare a prendere. Diciamo che il costo del servizio è di 3 euro. E quindi a seconda dello scontrino medio che dell'acquisto online può essere ritenuto più o meno onerosa, no? Cioè, certo, dipende se vale la pena, se si sta aspettando merce per centinaia di euro, 3 euro in più si ammortizzano, se si sta aspettando un CD, come succede in molti casi, forse è meglio tentare la sorte. Anche se poi facendo i conti con la benzina e il tempo perso per andare al deposito del Corriere, che spesso è molto fuori ai centri delle città, probabilmente possono convenire comunque 3 euro. Secondo me a Trento non farete un grande business, non avrete una grande penetrazione, perché ci segnalano gli ascoltatori, Cristina è l'ultima, che in Trentino le poste funzionano bene, ma proprio bene. Com'è possibile questa differenza anche a macchia di leopardo sul territorio? 349-238-6666. E parlavamo anche di universalità del dovere da parte dell'azienda istituzionale di garantire il servizio universale. Poste Italiane, diciamo, è obbligata su tutto il territorio a erogare questo servizio. Ma intanto cambiano anche le abitudini. Pensate che gli italiani scrivono poco anche rispetto ai loro colleghi oggi, cioè anche in Gran Bretagna ci sono le email, anche in Germania. Eppure in Italia ci sono solo 61 invii pro capite ogni anno contro i 220 della Gran Bretagna o 183 della Germania. Andiamo ancora una volta a Milano, Pierluigi, velocissimo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, quello che voglio segnalare, beh, intanto non solo Poste è obbligata, ma è pagata per fare un servizio pubblico che spesso è veramente disarmante. Io ho ricevuto un atto giudiziario il 9 di giugno, abito ad Assago in un quartiere nuovo, e ancora ad oggi non ho più avuto modo di recuperare questo documento. Mi sono recato in posta più giorni, mi hanno sempre detto l'hanno smarrito, è perso, grazie, ho scritto posta e questo è un grosso problema. Pierluigi, grazie, purtroppo siamo in chiusura perché dobbiamo andare la linea al giornale radio, ritorneremo naturalmente dopo il notiziario per le conclusioni su questo servizio universale che Poste dovrebbe erogare. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 349-238-6666, buongiorno, siamo tornati dopo il GR con i vostri messaggi sul servizio postale in Italia e sono molti coloro che ci dicono perché ci sono questi disservizi nelle poste. Perché dovrebbero le poste concentrarsi sul ruolo della comunicazione, che è uno dei pilastri del vivere sociale, e non mettersi a fare banche o quant'altro. Però ci sono anche email di tenore completamente opposto che ci arrivano, questo è scritto a spunti di vista @radio24.it, dalla Svizzera. Dico, io vivo in Svizzera, vi sto ascoltando da lì e assolutamente vi garantisco la posta ineccepibile, il servizio puntuale. Comunque anche qui le poste svolgono altre funzioni ormai legate alle esigenze del 2014, tra cui quelle bancarie, quindi non sarebbe questa la causa del disservizio. Funziona tutto benissimo in Trentino, continuano a segnalarci i vostri messaggi, sempre polemici verso noi italiani. A Trento le poste funzionano perché la mentalità è tedesca e non italiana, è la sottolineatura che ci fa Massimiliano. Ci siamo chiesti comunque, il principale strumento di comunicazione per secoli è stato rappresentato dalla lettera, perché sulla lettera è stata fondata non solo la coesione sociale, ma anche lo sviluppo economico, i rapporti tra stati. Ora c'è stato un progresso tecnologico che ha consentito in qualche modo di affiancare alla spedizione della lettera altri mezzi di comunicazione. A fronte di ciò si riduce anche il numero dei postini. È qualcosa che bisogna accettare come l'avvento di nuove esigenze, di un'era nuova, o vanno mantenuti in vita? Comunque forse va dato loro anche un altro ruolo. Paolo Martinello. Che la posta, il fatto che faccia altri mestieri come quello assicurativo, bancario, finanziario in genere, non è di per sé un fatto negativo. Io credo che anzi, il problema è che non deve avvenire questo mutamento a scapito del servizio postale. Ovviamente il servizio postale secondo me ha un futuro, quindi non è vero il postino. È chiaro che le lettere sono sempre meno, ma come dicevamo prima, il commercio elettronico, che è una grande prospettiva di crescita economica soprattutto nei piccoli centri, dovrebbe essere fondamentale un servizio di recapito economicamente sostenibile, perché è presumibilmente lì che si dovrebbe sviluppare maggiormente il commercio elettronico. E dopodiché il servizio universale va garantito, si può riformare, si può rivedere, va garantito, non è detto, perché non sta scritto da nessuna parte, che debba essere in eterno Poste Italiane a dare questo servizio. Sfatiamo questo mito. Oggi è Poste Italiane che lo fa in modo abbastanza inefficiente, come abbiamo visto. Non è per nulla detto che un domani questo servizio, magari distinguendo zona da zona e non solo e non imponendolo a livello nazionale come avviene oggi, potrebbe far entrare anche nel servizio universale operatori che traggono vantaggi dal fatto di avere una rete di sportelli, dal fatto di avere un servizio già organizzato sul territorio, magari un territorio locale. Ma oggi, lo ricordiamo, Martinello, oggi ci sono già circa 1900 concorrenti, certo, di Poste Italiane. Ci sono, solo che oggi fanno concorrenza a Poste dove c'è il business, ovviamente, quindi non tanto nelle zone periferiche che sono coperte dal servizio universale, ma che secondo me, per i motivi che dicevo prima, hanno un futuro, e non è detto che alcuni di questi concorrenti non potrebbero essere interessati anche a sopportare un costo, peraltro coperto in parte dallo Stato, per dare un servizio economicamente non sostenibile, a fronte del vantaggio che avrebbero nel erogare altri servizi altri progetti. Insomma, il servizio bancario a Poste lo fa sfruttando anche una posizione, come dire, di privilegio data dagli sportelli già aperti sul territorio. Quindi insomma alcuni dicono che è anche una concorrenza sleale, fra virgolette, che fa alle banche, però questo, lì c'è un guadagno consistente di Poste, si parla di cui molti si avvalgono, quindi, di conseguenza ci saranno anche vantaggi per i consumatori. Quello che è più grave, forse, che emerge da tutto ciò è che restano affidati in esclusiva a Poste Italiane le notifiche di atti giudiziari e multe, e su quello i ritardi, come ci segnalava un ascoltatore, i ritardi nelle consegne o gli smarrimenti creano parecchie angosce oltre ai disagi. Grazie, abbiamo celebrato non l'addio ma l'arrivederci, chissà, uno snellimento sicuramente della figura del postino nel corso di questa prima parte di Spunti di Vista. Tra poco apriremo una pagina completamente diversa. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. 12 minuti dopo le 9, allora ancora buongiorno, buongiorno a voi che guidate. E non solo, da Irene Zerbini al microfono, da tutta la redazione che si è data parecchio da fare ieri per portarvi questa notizia che arriva da fuori ma che riguarda tutti. È un indice, una sorta di classifica delle nazioni nel mondo, e siamo abituati a scorrerne diverse parecchie, sul paese, traducendo dall'inglese good, diciamo più buono. Però attenzione, perché il contrario di buono in questo caso non è cattivo, ma è egoista, quindi il paese più attento a ciò che succede fuori, a ciò che succede agli altri, una sorta di necessità ormai nel 2014. E sapete qual è il paese che si guadagna la vetta della classifica? Provate a immaginarlo, vediamo se ci azzeccate, diciamo così, perché è piuttosto insperata, è piuttosto inattesa questa designazione. Ma per parlarne noi abbiamo in questa trasmissione il fondatore, il creatore di questo indice, si chiama Simon Anhol. Welcome, buongiorno Simon. Buongiorno. Simon parla perfettamente l'italiano, è stato un consulente di diversi governi, ha lavorato per la Banca Mondiale. Lei, Simon, un giorno, lo racconta bene nel suo discorso a TED, questo discorso da cui siamo partiti, un giorno però ha deciso come molte delle eccellenze nel mondo, di andare oltre gli incarichi che le davano e farsi delle domande. E si è chiesto perché continuiamo ad avere questi problemi all'interno di ogni paese, come dovrebbe essere la classe politica del 2014, e qui non fa differenza se stiamo parlando di Asia, America, Europa o Africa o altri paesi. Hai identificato lei, Simon, e si vede in questo un consulente di governanti, delle linee guida che, se accolte, sarebbero forse veramente un contributo sostanziale a rendere il mondo migliore. Ma partiamo dall'inizio. Perché sbagliamo? In cosa sbagliano, secondo lei, i governi attuali? Il problema sostanzialmente è la globalizzazione. Nel corso di questi ultimi 15 anni che ho cercato di aiutare questi 53-54 governi con i loro problemi politici e di relazioni internazionali, ho notato sempre di più che i governi nazionali non riescono ad avere nessun impatto sui problemi che affrontano. E il motivo per questo è semplicemente il fatto che la maggior parte dei problemi che affrontano sono globalizzati, nel senso che non sono più problemi locali. Ce ne sono davvero pochi di problemi locali oggigiorno. Però i governi, diciamo, stiamo usando questo termine proprio per dire le leadership, coloro che sono eletti o nominati, in qualche modo raccolgono voti all'interno di una singola area, di un singolo paese. Esattamente, però una volta che sono al potere sono notevolmente incapaci di risolvere questi problemi, perché sono problemi legati con altri paesi, legati con i problemi che esistono in tutto il mondo, e questa è la conseguenza della globalizzazione, che i problemi di oggigiorno, sia il cambiamento climatico, la sovrappopolazione, il terrorismo, la crisi economica, terrorismo eccetera eccetera, sono tutti problemi complicatissimi e resi ancora più complicati dalla globalizzazione. Quindi l'idea di un singolo governo agendo da solo per conto dei suoi cittadini che possa in qualche modo risolvere uno, sebbene il più piccolo, di questi problemi è diventato assurdo. Cioè dobbiamo collaborare di più e forse competere un po' meno. È quello che non stiamo facendo. E lei racconta nel suo discorso che tutto risiede un po' nel fatto anche, e già l'abbiamo capito dal suo intervento, che ancora regoliamo i nostri stati, i nostri paesi con governi, con modelli che risalgono a centinaia di anni fa, cioè con lo Stato sovrano che ha una mente più da monoscopio che da telescopio. Cioè tendiamo a pensare ogni paese come sia un'isola che esista da sola e quindi che deve competere con l'altro, e cerchiamo, perché questo è quello che noi paese civile chiediamo ai governanti, che vengano risolte cose come giustizia, competitività, produttività all'interno della nostra singola area. Non ci chiediamo cose giuste per gli altri, perché siamo, lei dice che siamo un po' culturalmente psicopatici, cosa intende? Lo psicopatico è uno che poveretto ha problemi a empatizzare con gli altri. Quando guarda intorno a sé non vede altri esseri umani con vita interiore complesse come lui stesso, vede effettivamente sagome, vede persone di cartone. E fortunatamente questa è una malattia abbastanza rara, ma quello che io ho notato è che c'è una forma di questa psicopatia che invece è molto molto comune, sebbene abbastanza lieve, e che è una psicopatia culturale, che quando si tratta di guardare persone che sono diverse da noi, o perché la pelle è di colore leggermente diverso, la religione è diversa, il modo di vestirsi, il modo di parlare, il modo di agire, tendiamo un po' a diventare psicopatici, nel senso che non abbiamo più la capacità di empatizzare pienamente con loro e non li vediamo come esseri umani come noi. Cioè noi abbiamo molto empatia per coloro che ci assomigliano, e questo vale a livello individuale e a livello di governo, di Stato. Veniamo ora a questa classifica straordinaria che lei ha stilato. Quanto avete impiegato a elaborare i dati a livello planetario? Ma ci sono voluti 2 anni e mezzo più o meno. Effettivamente non è un sondaggio originale, nel senso che non siamo andati noi in giro a collezionare i dati. Quello che abbiamo fatto è che abbiamo combinato, abbiamo messo insieme 35 set di dati provenienti per la maggior parte dalle Nazioni Unite. Trovare dati buoni, robusti, accurati per ogni paese del mondo non è facile, non ce ne sono molti di sondaggi di questo genere, una 50 in totale forse, tra i quali abbiamo trovato 35 che funzionano bene per misurare l'impatto esterno di ogni paese. L'impatto esterno che ogni paese ha. L'Italia è al 20° posto secondo questo Good Country Index. Chi vi ha finanziato in questa ricerca? Nessuno. Non volevo trovarmi nelle tasche di nessuno, quindi l'ho fatto. Questo a garanzia dell'indipendenza. Esattamente. E dopo che avete. Non ci è costato molto, fortunatamente, perché dispongo di aiutanti bravissimi, volontari. Volontari, incredibile. Dopo che avete pubblicato questo Good Country Index, e tra l'altro c'è stato anche questo speech che l'ha reso, l'ha diffuso nel mondo, ieri sera lei aveva 962.000 click, questa mattina 973.000, ho controllato, e poi nel corso della trasmissione è arrivato 975.000, chissà se taglieremo soglia 1 milione in diretta, sarebbe interessante. 1 milione di persone che l'hanno cliccata, quello che fa impressione, leggendo anche le reazioni, è la giovane età. Queste tematiche interessano tantissimo ai ragazzi, ai giovani. Noi pensiamo e facciamo politica sempre per, chissà perché, per i pensionati, per i quarantenni, tutte categorie più che meritorie. Non pensiamo mai al futuro, ai sedicenni, ai diciassettenni, che invece corrono a cliccare su questo tipo di informazione, perché manca nelle testate comuni. E lei è stato contattato, abbiamo visto dalle reazioni, è molto, anche se ci stiamo chiedendo ancora qual è il paese che ha il maggiore contributo sul resto del mondo, non l'abbiamo ancora svelato. E lei è stato contattato da moltissimi insegnanti. Anche, sì. Cosa le hanno detto questi insegnanti? Mi hanno detto che verso la fine dell'anno scolastico, estate, in metà del mondo, trovano difficoltà a trovare discorsi che possono interessare questi ragazzi che a questo punto sono un po' fiacchi, se ne vogliono andare in vacanza, e molti di loro mi hanno scritto dicendo in disperazione, ho fatto vedere il suo video su TED e si sono risvegliati. Ed è un discorso che a quanto pare tocca molto, come dice lei, i giovani, perché a loro piace pensare al mondo, all'impatto sugli altri. Scrive un insegnante: è stato far vedere questo video di TED come innaffiare piante aride, cioè si sono risvegliati, nel senso che l'attenzione è tornata a mille. Questo apre un altro capitolo, ci faremo una trasmissione su come interessare i ragazzi sui banchi di scuola. C'è questo Good Country Index, ci scrivono gli ascoltatori, secondo me in cima alla classifica c'è il Canada. No, abbiamo detto che è un risultato insperato, quindi Canada in generale nelle classifiche di produttività, di qualità della vita è sempre abbastanza in alto, è qualcosa di nuovo. Bisogna aiutarli un pochettino gli ascoltatori. Va bene, dia lei gli elementi. Innanzitutto bisogna dire che la classifica è divisa per PIL, Quindi un paese che dà tantissimo in assoluto, come per esempio gli Stati Uniti d'America, non sarà favorito dalla sua grandezza. Quindi tutto diviso per PIL. Quindi bisogna pensare un po' in termini di per ogni persona o per ogni dollaro pro di capite, quindi per il numero degli abitanti suddiviso quanto viene destinato fuori, non solo in termini misurabili, anche in termini di cultura. Quali sono gli altri parametri che avete incrociato? Ma in effetti sono tutti misurabili, perché è tutto basato su dati. Intendevo misurabili economicamente. Non solo economicamente, per esempio ci sono 7 categorie. La scienza e tecnologia, per esempio, include la quantità di studenti che si accolgono dall'estero, la quantità di pubblicazioni internazionali che si emettono, premi Nobel, eccetera, eccetera. Poi ci sono altre categorie come la cultura, la pace e sicurezza, l'ordine mondiale, il pianeta, il clima, ovviamente. Il rispetto dell'ambiente, l'ecologia. Dove l'Italia ha una performance non del tutto cattiva, non è malissimo. Diciamo solo che per il nostro paese questa 102esima posizione in temi di pace e sicurezza internazionale non ci fa grande onore. No, infatti, ma là siete in buona compagnia, perché la maggior parte dei paesi democratici, occidentali e ricchi si trovano abbastanza bassi in questa categoria della pace e sicurezza, perché io includo il numero di truppe che si mandano fuori per combattere, per qualsiasi motivo. E i dati qua che abbiamo raccolto risalgono al 2010, che era l'ultimo anno in cui era possibile trovare tutti i dati freschi e di buona qualità. C'è quindi chi ci dice il Giappone, si stanno innervosendo gli ascoltatori tramite SMS, c'è chi proprio scrive perentorio, diteci chi è, cioè con i punti esclamativi, non ce la fanno più. E poi ci segnalano Giappone, no. È al 25esimo posto il Giappone. Un altro ci dice Vaticano. Adesso io sto scorrendo qui la classifica e il Vaticano non lo trovo. No, il Vaticano non c'è, perché mancano una settantina di stati che non presentano abbastanza dati da essere inclusi. In fondo al 125esimo posto trovo la Libia, appena sopra il Vietnam e l'Iraq al 123esimo. 122esimo, quindi sempre fanalino di coda all'Azerbaigian, e questo non me l'aspettavo, l'Angola, lo Zimbabwe e l'Indonesia. Molto basso anche Benin e Venezuela, quindi siamo andati in coda alla classifica. Possiamo dire che l'Italia è 20esima, lo ribadiamo, l'Austria 14esima, il Portogallo è 35esimo, e visto le dimensioni del paese mi sembra una prestazione di tutto rispetto. Ora le chiedo però, Simon, come si incrocia questa possibilità di contribuire sul mondo con la felicità interna di chi vive in quel paese? Ma secondo me la felicità interna potrebbe anche essere una conseguenza del modo in cui il paese si comporta nel mondo. Se uno sa che appartiene a un paese che dà tanto al resto dell'umanità e al pianeta, secondo me dà felicità a questo. Lo stesso vale per una persona generosa generalmente è una persona felice, lo stesso vale per i paesi secondo me. Lei ha detto in questo discorso su TED, ecco io voglio vivere in un paese in cui prima di andare a dormire tutte le notti voglio addormentarmi pensando thank God questo paese, e non lo posso svelare di che paese sto parlando, esiste. C'è anche qualcuno che dice ho TED sull'iPhone e ha svelato l'arcano. Roberto ci sta scrivendo da Milano dicendo adesso io so quali sono i primi 3 posti, però ha l'accortezza di non svelarlo pubblicamente. E è molto importante per un paese essere rispettato. Lei ha calcolato, tra l'altro, anche se non le piacciono gli indicatori solo materialistici, perché da lì viene, però ha calcolato che comunque conviene anche ai governanti, diciamo così tra virgolette, al PIL del paese, alla redditività, alla competitività, essere rispettato come paese buono. Come tradurrebbe lei questo good in italiano? Non è proprio buono, generoso? Cos'è che si avvicina a questo concetto di good? Io ho visto sul sito TED, dove pubblicano i sottotitoli dei vari discorsi in tante lingue, ci sono i sottotitoli del mio discorso in italiano, fatto benissimo, devo dire. Il traduttore ha usato il termine bravo, ha detto bravo. Voglio vivere in un paese bravo. E non mi è dispiaciuto questa idea. Sì, questo termine dunque si avvicina. Ecco, perché conviene essere bravi paesi? Esatto. Perché, le sto chiedendo Simon, conviene? Sì, cioè al di là di delle questioni umanitarie, comunque importantissime, perché conviene entrare in questa classifica e cercare di scalarla? Ma innanzitutto non è che convenga, è cruciale, è assolutamente essenziale, perché se non riusciamo ad indirizzarci come paesi un po' di più verso l'esterno, pensare, collaborare e cooperare di più con gli altri paesi, siamo perduti, perché i grossi problemi di oggigiorno, quelli di cui ho elencato un paio qualche minuto fa, questi sono i problemi che peggiorano con ogni anno. E se non riusciamo ad indirizzarci verso fuori e a pensare un po' di più al mondo intero, al resto dell'umanità, siamo persi, perché questi problemi continuano a peggiorare. E mentre gli individuali paesi possono, qualcuno di loro, diventare sempre più ricchi tramite la competizione tra di loro, il sistema intero, il sistema globale, continua a correre verso un futuro sempre più insicuro. Sono parole che sottoscrivono tutti i nostri ascoltatori. Tra poco faremo parlare direttamente loro. Intanto al 349-238-6666 c'è chi ci chiede se il paese in testa alla classifica è il Nepal. Qualcuno ci segnala la Danimarca, oppure Costa Rica, Svizzera, e Valentina sostiene Islanda. Non ci sono premi in palio, ci stiamo solo chiedendo quali sono i parametri che potrebbero portarci tutti quanti a pensare che quel paese, quello specifico, sia bravo, bravo verso gli altri. Fabio, buongiorno. Pronto? Da dove chiama Fabio? Roma, buongiorno. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Il paese migliore del mondo dal punto di vista delle relazioni con gli altri, del contributo al resto del mondo, un paese per cui addormentarsi di sera pensando che meraviglia che esiste questo paese qua. La Svizzera, come ci è stato detto, ci si è avvicinati, è al terzo posto, ma non è la vincitrice della classifica. Il Belgio è decimo e la Spagna diciannovesima, ci stiamo avvicinando. Comunque torniamo agli ascoltatori che vogliono parlare. 800 24 00 24 ci ha spiegato l'inventario di questo indice che tanto consenso sta raccogliendo. Poi parleremo anche delle reazioni che i diversi governi hanno avuto quando l'hanno contattato per capire come migliorare all'interno di questa classifica e come appunto è stata presa dai ricercatori che in ogni paese sono preposti al controllo dell'immagine della singola nazione all'estero. E sarà una sorpresa scoprire anche cosa è successo dall'Italia. Intanto però, Fabio, pronto? Riusciamo a parlarle ora? Buongiorno. Lei chiama da Roma, provi a darci il suo contributo, perché temo che la linea tra poco ci lascerà, non so, la sento molto disturbato, dica Fabio. Allora, guardi, molto semplice questo, il termine psicopatia culturale è molto interessante. Direi che forse un cambiamento potrebbe partire dal fatto che si dovrebbe cambiare il termine diverso con il termine differente. Differente in avvio significa dal termine fero, portare. Sì. Per cui siamo portatori di cose differenti, quindi religioni differenti, non diverse da divergenza. Quindi non ci allontaniamo uno dall'altro culturalmente, ma siamo semplicemente portatori di valori diversi. Non c'è il diverso perché è malato, c'è il differente. Il differente, perché lei dice già l'etimologia, salva un campo di significati molto più ampio, molto più bello. È molto importante, credo, si dovrebbe ripartire da questo. Grazie per questo spunto che arriva da Roma. Fabio, ci spostiamo al nord. Pronto, buongiorno. Giulio. Pronto, buongiorno. Buongiorno Giulio, dica. Dica, guardi. Mi piace molto le vostre trasmissioni che ascolto sempre. Ci fa molto piacere, grazie per la pazienza. Volevo intervenire su questo fatto che si sta parlando, forse non è perché c'è un po' di indifferenza verso gli altri, difficoltà, egoismo, c'è un po' di tutto che mette in discussione la felicità dell'altro, no? Dell'altra persona. Lei state facendo un programma in cui parla qual è la città più felice. Mio padre mi diceva sempre: tutto il mondo è paese. E poi aggiungeva un proverbio e diceva: dove un re governa male, tutto il popolo geme. Grazie, grazie per... Non è il fatto che questi governanti governano male e allora la povera gente geme, non c'è più felicità, grazie. Non c'è più prospettiva. Grazie, è chiaro che le responsabilità dei vertici, no? C'è questa ricaduta che va fino alla base della piramide, anche se poi nel corso di TED, se l'avete ascoltato, non sapevo ci fosse anche quei sottotitoli, quindi è accessibile a tutti noi. Se andiamo nella web, vedrete che a un certo punto si ribalta anche questa idea che siano sempre i governi a farci subire le loro decisioni, cioè noi o chiunque può influire. Arriveremo anche a questo. Voglio ringraziare per averci contattato, perché ci ha contattato lui e l'ho subito coinvolto nella trasmissione, padre Giulio Albanese. Buongiorno. Buongiorno. Missionario e giornalista. Lei tra l'altro è direttore di diverse testate missionarie. Penso che rispetto alla sua attività, quello che si sta discutendo oggi del fare nel mondo sia molto connesso. È sorpreso di trovare l'Italia al 20° posto? No, non sono assolutamente sorpreso. Devo dire che è un'operazione molto intelligente e efficace quella che è stata fatta, quella di elaborare questi dati. Fondamentalmente per un motivo, perché la sfida nella relazione tra gli stati sovrani, prima ancora che essere una sfida sociale, politica, economica, è una sfida culturale, ed è questo il punto, con ripercussioni sul piano etico. Mentre ascoltavo la trasmissione mi veniva in mente un virgolettato del grande Jim Morrison, che recita più o meno così: rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. Questo significa che la riflessione, a mio avviso, va incentrata sia sull'aspetto etico. Ce lo può ripetere, padre Giulio, visto che è Jim Morrison e non tutti i giorni ci capita di sentire questo tipo di citazioni. Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire, a significare che in fondo se il nostro povero mondo sta sperimentando le vicissitudini che sono raccontate, direi ferialmente, quotidianamente dai nostri notiziari, guerre, ingiustizie, sopraffazioni, atrocità, pensiamo anche al fenomeno di Ebola, agli sconvolgimenti climatici. Inutile nasconderselo, prima di chiedersi, e lo dico forse per deformazione professionale, perché prima sono un missionario e poi un giornalista, ma comunque non dobbiamo porci la domanda dov'è Dio, sarebbe a mio avviso più lecito, più intelligente porsi un'altra domanda: dov'è finito l'uomo? E qui le responsabilità sono sicuramente responsabilità dal punto di vista etico, non v'è dubbio. Lei sottolinea una cosa importante, ora ha citato Ebola, nel discorso di Simon Anholt, scritto A-N-H-O-L-T, mi chiedono gli ascoltatori anche lo spelling perché evidentemente lo stanno cercando. E Simon Anholt, questo consulente globale che abbiamo oggi nostro ospite e che parla italiano per nostra fortuna, quindi può intervenire in diretta, e lui in TED apre proprio dicendo: il mondo è cambiato negli ultimi 30 anni perché una volta, se un pollo starnutiva in un villaggio remoto in Asia, sarebbe stata una tragedia solo per il pollo e per i suoi parenti. Ora lei ha citato Ebola perché si è diffuso anche questo allarme globale o apprensione quantomeno negli ultimi giorni, ma è una dimostrazione ancora una volta dei fortissimi legami, solo che noi tendiamo a viverli sempre soltanto come problema. Può essere ribaltata questa vicinanza e diventare invece una risorsa, potremmo come Stato diventare una risorsa gli uni per gli altri. C'era un grande statista africano, Leopold Sédar Senghor, il grande maestro della negritude, il quale proprio in riferimento al tema che noi stiamo affrontando, in particolare particolare alle relazioni tra nord e sud del mondo rispetto alla res publica dei popoli, vale a dire al bene comune dei popoli, diceva che il passato, tra virgolette, il cosiddetto colonialismo, non aveva fatto altro che acuire la distanza tra i popoli, tra coloro che dominavano e coloro che erano dominati. Ora lui diceva, se vogliamo guardare in maniera intelligente al futuro, se vogliamo davvero alimentare la speranza, come missionario dico l'ottimismo di Dio, lui diceva dobbiamo avere il coraggio di saperci incontrare all'appuntamento del dare e del ricevere, perché abbiamo un destino comune. E guardi, questo è il punto. Se noi assistiamo oggi in Europa ai rigurgiti di nazionalismo, se vi è anche in Italia, soprattutto direi in Italia, un provincialismo, come dire, cronico, endemico, questo è dovuto proprio a un deficit culturale. E lei ha ragione a sottolineare che l'informazione è fondamentale. La parola informazione viene dal latino, prefisso in, che solitamente nella lingua italiana ha una valenza, come dire, negativa, informe, informale. In questo caso invece ha un significato accrescitivo. Informare, che significa dare forma, plasmare. Plasmare la notiziabilità, cioè avere il coraggio di mettere in apertura sempre le notizie più importanti, quelle che davvero contano. E purtroppo dobbiamo ammetterlo, soprattutto per quanto concerne la pagina internazionale, i fatti, gli accadimenti che riguardano le cosiddette periferie del mondo, faccio riferimento al magistero di Papa Francesco, purtroppo sappiamo poco o niente, ed è proprio questo deficit. Ma guardi che noi sappiamo poco o niente anche dell'Austria, senza andare nella periferia del mondo, abbiamo scoperto proprio da queste frequenze, non usciamo proprio dal nostro confine, a meno che ci mettiamo a guardare Stati Uniti o Gran Bretagna. Sì, non è solo una questione, però, me lo consenta, sa qual dica. È la differenza? Che i problemi dell'Austria dal punto di vista della contaminazione non mi pare che siano molto evidenti alla casalinga di Voghera o al metalmeccanico di Poggi Ponzi. Invece il problema qual è? Che i problemi delle periferie, quelle che sono geograficamente distanti da noi, non solo non li conosciamo, ma tutto questo genera proprio quell'atteggiamento schizofrenico di cui si parlava poc'anzi, quella chiusura mentale che è estremamente pericolosa. Perché in fondo quello che è importante capire, credo che sia il motivo fondamentale per cui è stata portata egregiamente avanti questa ricerca da Simon, e il discorso di fondo qual è? È che proprio perché abbiamo un destino comune, i problemi delle altre nazioni sono i nostri problemi, il fenomeno migratorio la dice lunga. Grazie padre Giulio, questi sono i nostri problemi, ma c'è una scarsissima conoscenza. Come diceva Simon, sono delle sagome di cartone, non sono persone. Se hanno una religione differente e non diversa, accolgo lo stimolo dell'ascoltatore, dalla nostra, mangiano in maniera differente dalla nostra, pregano in maniera differente dalla nostra, anche persone molto munifiche, generose, e si sentono molto empatiche verso coloro che assomigliano. Continuiamo a scorrere la nostra classifica per scoprire che il Kenya è l'unico stato africano a essere rientrato tra i primi 30 posti in classifica. Infatti è al 20° posto, quindi ha dimostrato che un contributo significativo alla società non è affatto un appannaggio esclusivo delle zone ricche. E noi ora ci chiediamo se c'è una connessione tra il fare bene e la felicità. Professor Gallina, buongiorno. Buongiorno. Pronto, il professor Paolo Gallina è un docente di meccanica alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trieste, un esperto di robotica. E lei ha scritto un libro dal titolo strano, La formula matematica della felicità. Secondo lei, poi parleremo della formula, ma c'è una connessione tra questa classifica, cioè il fare bene verso gli altri, e la possibilità di cogliere nel segno, essere felici? Ma credo senz'altro di sì, io non ero a conoscenza della classifica, però così mi viene a pensare su due piedi che sicuramente incrementare la felicità non solamente di se stessi, dello stato in cui si vive, ma anche degli stati in cui si ha la possibilità di essere attivi nell'intervenire, crei... aumenti qualche indice in qualche maniera di questa classifica, per cui direi proprio di sì che la felicità ci rientra. Il problema semmai è come definire la felicità, visto che insomma secondo me potrebbe essere assimilabile a, così, all'immagine di un arcobaleno ineffabile, multicolore e approcciabile da diversi punti di vista. Ma lei ha comunque, al di là della definizione, addirittura coniato una formula. Quali sono gli elementi che fanno parte di questa formula? Beh, allora, se mi permette una premessa, ci sono tre motivi per così redigere delle formule della felicità. Il primo motivo è quello di vendere così una formula magica. Se tu fai A, poi fai B e fai C, assolutamente diventerai felice. E questo è il primo approccio che si ha verso la felicità. Ci sono molti saggi che sono stati scritti con quest'ordine, questa possibilità. Invece abbiamo capito che lei critica questo approccio, invece cosa bisognerebbe fare? No, gli altri due modelli, gli altri due ricerche delle forme della felicità sono per creare dei modelli che possono essere utili per chi studia il problema della felicità, tipo per gli psicologi o addirittura per la classe dirigente, la classe politica, che invece di creare dei cambiamenti o delle leve per cambiare un profitto, crea delle leve per cambiare indici della felicità. E l'altro motivo perché vengono studiati è, sono, ad esempio, io vengo dal settore della robotica. Nella robotica, soprattutto nell'intelligenza artificiale, si sta tentando di creare modelli per creare macchine che possano ragionare in termini di felicità o che possano interagire con l'uomo in termini di felicità. Questo è un tema molto caldo e molto importante che confina anche sull'etica. Tra poco però vogliamo sentire qual è questa formula matematica. Intanto stiamo continuando a chiederci qual è lo stato più bravo del mondo e ci dicono in tanti il Bhutan. Perché? Perché il Bhutan era in testa alle classifiche rese note qualche anno fa sulla felicità. Invece in questo caso non è il Bhutan e neanche il Canada, come continua a sottolinearci qualcuno, ma è uno stato che va oltre la propria felicità, perché in questa classifica Good Country Index Simon Anhol spiega chiaramente che anche la classifica della felicità si avvicina, ma non è esattamente l'impatto che si ha sul pianeta. È ancora una volta qualcosa che guarda in, cioè dentro, e che non guarda fuori. E lui con questa grandissima ricerca ha avuto il merito di andare oltre. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Belle atmosfere che evocano la felicità, e vogliamo arrivare alla formula matematica, professor Gallina, perché tra poco dovremo svelare chi si trova in testa alla classifica di questa particolare fotografia che è stata scattata per la prima volta con 2 anni di lavoro sui dati incrociati che hanno preso in esame diversi parametri e che hanno fatto sì che molti governi si allarmassero. Infatti molti hanno chiamato Simon Anholt per chiedere cosa possiamo fare per migliorare. E l'Italia è stato proprio sommerso di telefonate dall'Italia, il nostro Simon Anholt, ce lo dirà lui tra pochissimo. Professor Gallina, la formula della felicità. Allora, spieghiamola con un esempio piuttosto semplice, ha a che fare con l'aspetto edonistico, quello più basilare della felicità. Se prendiamo in considerazione uno stato, un indice di una persona, che può essere l'acquisizione di soldi, l'acquisizione di beni o l'incremento in carriera, e rappresentiamo questo indice come una serie di scalini, la formula dice semplicemente che mentre si sale si è felici, quando si rimane per troppo tempo nello stesso livello che si è acquisito, allora subentra una sorta di noia, di adattamento. E questo è. E non importa questo avviene al primo scalino come all'ultimo, cioè non importa su che posizione della scala si sia, ciò che c'è. Non importa, c'è sempre una saturazione. Ecco, questo è quello che ci insegna la formula La formula della felicità, quindi, risiede nel movimento. Grazie per questo stimolo molto importante di Paolo Gallina, che chissà si potrà applicare anche agli stati. Allora, in cima alla classifica del paese più bravo del mondo, Simon Anholt, chi troviamo? Qual è il paese più bravo del mondo in assoluto? Simon. L'Irlanda. L'Irlanda. L'Irlanda. Quindi lei si è addormentato recentemente pensando, ah, per fortuna c'è. Ma perché? Perché siete arrivati a questa conclusione? Ce la spieghi nel dettaglio. Allora, nel 2010, sì, che era, come ho detto prima, l'anno in cui tutti questi dati si risalgono, l'Irlanda ha fatto per ogni euro di PIL del paese e per ogni persona del paese ha fatto più bene al resto del mondo di qualsiasi altro paese e ha fatto meno male al resto del paese di qualsiasi altro paese. Quando dice meno male, cioè cosa avete valutato? Conflitto armato, droga, inquinamento, rifugiati emessi, farmaceutici buoni venduti al mondo, invenzioni. Musica? E la musica purtroppo non è misurabile, siamo costretti ad includere soltanto le cose che sono misurabili, che esistono già nei banchi dati dell'ONU e di altre agenzie internazionali. Poi vogliamo sapere anche chi l'ha contattata e quanto è preoccupato l'Italia. Ivan Dallara, buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto Ivan, lei buongiorno. È il sindaco di Ceregnano, sì, ed è nato in Brasile. È preoccupato del fatto che l'Italia sia solo al 20° posto in questa classifica sui paesi più bravi del mondo? Nel modo più assoluto. In questo momento mi preoccupo soprattutto del mio comune. Lei ha omesso di dire che io sono il sindaco, o l'ha detto, no? Perché sono in macchina, no? Non ho capito. Ho detto che lei è il primo cittadino. Ah, sì, tra sì, l'altro sì. Lei ha preteso l'assessorato alla felicità. Sì, esatto. Perché? Perché? Perché cerco di rendere felici i miei cittadini. Sono in macchina, quindi vado un po' a soggetto, no? Perché a mio modo di vedere... l'assessorato, abbiamo istituito questo assessorato alla felicità, non è un'idea mia ma è di tutta la giunta, che tende soprattutto alla, diciamo, alla sistemazione della personalità degli individui. Noi partiamo da un presupposto, abbiamo pensato che non abbiamo assolutamente la verità in tasca, e la felicità di per sé è irraggiungibile per certi aspetti, ed è difficile da interpretare. Questo senza dubbio, ma dunque sì. Cosa fate lì all'assessorato alla felicità? Cioè quali tipi di interventi fa l'assessore Elena Dall'Oco? Le faccio una premessa sì. Prima. Io avrei voluto, già mi hanno dato del matto per aver fatto e non avrei mai pensato che di balzare gli onori della cronaca nazionale, quasi internazionale, perché da noi sono venuti perfino gli americani, la CNN, a fare un servizio perché... Sì, ma cosa fate all'assessorato, sindaco? Venga al punto. Cosa fate all'assessorato della felicità? La ripeto, facciamo di tutto, un po' di tutto. Che sono iniziative che vanno dai rapporti con le scuole, la cultura, i bambini, concorsi fotografici, per dire, cerchiamo di rendere il più possibile un percorso verso il vivere meglio da parte dei nostri cittadini. Soldi non ne abbiamo, non ce ne sono. Né per questo assessorato né per il resto. Come primi passi, tanto per dire, abbiamo chiesto ai dipendenti, per dire, del personale, gentilezza, accoglienza agli sportelli comunali, alleggerimento delle pratiche burocratiche, abbiamo tagliato tutti i cellulari aziendali, abbiamo creato momenti di aggregazione che prima non c'erano, ho aperto la sala consigliare, che prima era riservata rigidamente al consiglio comunale, adesso ci vanno dentro tutti, bambini, donne, anziani, fanno corsi, controcorsi, a me dicono spaccano tutto, e dico io lascia che spacchino, poi aggiusteremo di nuovo. grazie a Ivan Dallara, sindaco di Ceregnano, ha creato questo assessorato alla felicità, e dall'esperienza avete sentito, e ancora una volta nell'entrare in contatto stato nello stare tutti insieme un po' questo segreto della felicità. Simon Anholt, però la felicità non è esattamente quello che voi avete indagato in questo indice del Good Country, dico bene? Sì, no, no, in effetti la felicità non c'entra molto in quello che stiamo misurando qua, potrebbe essere nella conseguenza, ma non è quello che misuriamo. Perché ancora una volta un indicatore interno, un indicatore che guarda al proprio popolo, alla propria popolazione, non agli altri. E perciò egoista, è un solo modo per calcolare quanto andiamo bene noi. Io volevo suggerire al sindaco un attimo fa che dovrebbe avere piuttosto un assessorato degli affari esteri, che per un paese sarebbe un'innovazione interessante, no? Quindi cominciare con il guardar fuori, assessorato agli affari esteri è la sua indicazione pratica per le piccole realtà. Voglio sapere, dalle grandi realtà, lei è stato contattato da ricercatori, dai governi di tanti paesi che le dicevano come possiamo crescere in questa classifica, siamo preoccupati, l'immagine, la percezione nostra è importante, ne siamo usciti male. Dall'Italia chi l'ha contattata? Lei. Io? Sì. Mi sono dimenticata di controllare che ministero ricopriamo qui a Radio 24, ma forse mi è sfuggito, c'è stato un rimpasto. E questo è terribile comunque, questa nota, questa disattenzione da parte dei nostri governanti rispetto a un indice che non è certo un esercizio hippie. Se chi l'ha fatto, come avete sentito, Simon Anholt, è non solo un consulente della Banca Mondiale, ma sta avendo riscontri presso i governi di tutti i paesi. Dice però lui, a conclusione, tanto possiamo fare anche noi perché dobbiamo usare questo indice come bastone per i nostri governanti e chieder loro ragione ogni volta che li eleggiamo di cosa viene fatto in questi campi. Da qui anche l'indicazione al sindaco, apra un assessorato ai lavori esteri. Intanto Simon, grazie, grazie per questa sua disponibilità, è stato con noi tutta l'ora, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti, grazie a tutta la squadra di Spunti di Vista, Luca Cremonese, Barbara Bianchi, Alessandro Casali, Anita Panizza, Carmelo Lauricella in regia e il mio amico Lele Ardizzi per la musica. Da Irene Zerbini, appuntamento a lunedì mattina.